Italia in controluce. Narrare e raccontare l'Italia, il nostro paese, attraverso le piccole e le grandi storie. Questo è il format di Italia in controluce, il programma del GR di Radio 24, condotto e coordinato da Daniele Biacchessi. Seconda puntata dell'inchiesta di Valentina Furlanetto sulle famiglie affidatarie che chiedono che ci sia una continuità d'affetto fra loro e i bambini che allevano. Bambini che dopo 2 anni di affido, in base alla legge attuale, vanno in comunità oppure tornano dai genitori naturali, se è possibile, o ancora vengono dati in adozione, ma non alle famiglie affidatarie. Insomma, un bel pasticcio contro il quale c'è una petizione in Parlamento. Seconda puntata, Valentina Furlanetto. Quando mio marito non mi chiamava alle 4, che lei non c'era più, ho capito che non sarebbe più tornata. Mi sembrava di diventare matta, perché io non riuscivo a realizzare che un servizio sociale, un giudice, potessero fare una cattiveria, una cosa, uno scempio così a una bambina. Ho davanti lei sul pianerottolo del nostro piano di casa di sopra, in cima alle scale, in braccio mio marito che non voleva, che le stava attaccata al collo. Ed è l'ultima volta che l'ha vista? Sì. Aveva solo questo cagnolino di pezza che aveva quel giorno, che lei chiamava L'ha portata via, ripeto, solo con questo cane di pezza. E quando sono tornata a casa mi sembrava di impazzire. Chissà dove sei. La storia di Brunella e Beatrice che vi abbiamo raccontato ieri è quella di una famiglia affidataria che dopo aver accolto una bimba di un mese l'ha cresciuta fino a 19 mesi, poi se l'è vista strappare via. Dopo anni la Corte d'Appello e la Corte Europea di Strasburgo nell'aprile scorso hanno dato ragione a Brunella. La bambina aveva diritto a rimanere con i genitori affidatari che l'avevano allevata per quasi 2 anni. Ora Beatrice ne ha quasi 7, da 5 vive con una nuova famiglia. L'avvocato Lucrezia Mollica. Se questa bimba rimaneva a casa di Brunella 1 mese e 2 mesi, era meglio di no, ma insomma nessuno soffriva così tanto, voglio dire, dello scopo dell'affido. Ma soprattutto per un neonato i tempi devono essere minimi. C'è una cattiva gestione dei tempi della giustizia. Perché col tempo cambia tutto, lo sai, cambiamo anche noi, cambiamo anche noi. Casi del genere ce ne sono molti in Italia, per questo l'associazione La Gabbianella e altri animali ha presentato una petizione al Presidente della Camera perché la legge 194 riconosca ai bambini, una volta dichiarati adottabili, il diritto a restare con la famiglia che li ha cresciuti. Carla Forcolin è presidente dell'associazione. C'è la convinzione che gli affidatari debbano essere affidatari e mai diventare adottivi o quasi mai, al fondo della quale c'è quello che scrivevo nella petizione stessa, cioè che i requisiti per adottare e prendere in affidamento sono un po' diversi. Si dice che il percorso per diventare adottivi è diverso, come se il percorso per diventare affidatari non fosse impegnativo. Ogni persona che ha l'idoneità all'affidamento, per averla passa comunque il vaglio degli psicologi. C'è una attenzione scarsa alla tutela della continuità degli affetti, perché la legge dice che i bambini dovrebbero essere ascoltati. Nessuno dà retta ai bambini. Se noi cerchiamo di metterci nei panni di certi bambini che sono stati messi in una famiglia appena nati, a pochi mesi, a 1 anno, e poi sono stati lasciati in quella famiglia per 2-3 anni, non possiamo che arrivare alla conclusione che quei bambini si sentono appartenenti a quella famiglia come qualsiasi altro bambino nella famiglia in cui si trova. La donna che se ne occupa è la loro mamma, l'uomo che se ne occupa è il loro papà, e a un bel momento qualcuno decide che deve cambiare famiglia. Se noi pensassimo al punto di vista di quei bambini, capiremmo che sono rapimenti legalizzati quelli che noi andiamo denunciando. We'll be right back. Era la prima edizione d'Italia in controluce su www.radio24.it. Tutte le nostre puntate. Torniamo freschi come sempre alle 13.30 su Radio 24.